E nel gruppo Facebook Parenti Serpenti uno ha lanciato l'idea: ma perché non andiamo tutti a vedere, a mangiarci una pizza? E siamo una ventina stasera. E niente, abbiamo scelto di andare lì in questa pizzeria lì a Predanieda, e poi sempre da Facebook ho scoperto che c'è musica sassarese. Allora manco cantemmo e ci passiamo una serata diversa. Ciao Dieta, ma per l'ottanto non la lasciamo, se no vi mettono in veranda. Io vado spesso lì, però quando non c'è musica sassarese, quando c'è musica normale. Beh, io sono andato poco prima di Natale perché suonavano il gruppo New Era, una cosa del genere. Io vado con voce karaoke, mi piace cantare, quindi vado con voce karaoke. No, quello, ma c'era il coso, il bricco, ma è lì. No, quello era, quello è lo speed date. Il coso, il Blackstone risulta essere, come te lo spiego, vicino all'incrocio di Cisalfa, andando verso la DAF Mercedes, dall'incrocio di Cisalfa. Ah, sì, ho capito. Beh, lì sì, il sabato lì fanno musica sassarese, gappa. Va bene, vai. L'importante è stare in compagnia e divertirsi. Riprendi, chi è? Daniele, riprendi tu o fate girare, dai, un attimino arrivo subito io. Va bene. E niente, quindi, la sera siete lì, che a fianco c'è una lavanderia, c'è così, Sì, nello stesso capannone, nell'altro angolo c'è la lavanderia industriale. E in mezzo tra uno e l'altro quel negozio che vende porte e infissi. Cazzo, mi ricordavo bene allora. Va bene. Dai, lasciamo a Pombolo. Cappa, ma corsi Noghi! Cos'è che ha detto? Capito Noghi? Che volte? Cosa hai detto? Io, ma mi ascolti adesso, cazzo! Ehi, a Pombolo, io ti ascolto Pio Pio, come radio. Segnale 6-3, ma radio è bassina, Vabbè, un po' drudiato, che sta cosa, ma c'è andata a ma è Gianni, mi intendi? Che c'ho, questo QRM è fastidioso, capito? Ma è altissimo, ma è fastidioso. E quindi, secondo il segnale, poi sì, c'è sottofondo, c'è. Ma è Gianni, mi sente? Gianni, è entrato, ma sta facendo qualcosa, tu? Io a tu, ti sento. Non penso che abbia un grande segnale, però già mi senti. La radio è un bel bassa però. Dove sei? Grazie. Ciao, che radio stai usando? Quella bella. Che garage? Adesso hai cambiato radio però. No. Sei sceso il segnale adesso. Ci ho staccato. Ah, è fregato, hai cambiato questo segnalone, hai trovato l'altra radio, sto usando. Guarda, adesso ho sempre il garage senza nulla, guarda come arrivo. 5, se la radio già è 5, dai. Capa, vabbè, stavo provando, vai. No, va bene, va benissimo, vedi? Ottimo, va bene, non problema. Gamma, riprendi Lu. Chi è che conosce l'Alan 78 Multi? Quello digitale si chiama Alan 78 Plus Multi. Sì, c'ha il display. Display arancione, c'ha quel tastino rosso emergenza, cosa era? K, sì, ho letto che può essere aperto. Quello l'ho avuto, però non mi piaceva quella modulazione, nonostante fosse stata aperta anche la LC, però non rendeva. Perché me l'hanno regalato. Cosa? Che mi hanno regalato sia quello che un President Billy. Cava. E non li hai provati ancora? Sì, li ho provati per vedere come escono, ma sempre 4 watt, sempre omologati, non sono. Vabbè, i President Billy sembrano un pacchetto di sigarette, giammai, cante minori. C'ha solamente, non ha né smitter né niente, c'ha solamente il display col numero del canale. il volume e lo squelch, punto, non c'è altro. Mentre la LAN 78 lì esce normale, 40 canali, ma stavo leggendo che bisogna, facendo delle saldature, mettendoci mano, riesce a avere 200 canali. E riconferma, cioè la tua è una saldatura se non erro, e poi va dappertutto. E ci vorrebbe qualcuno che sa come metterci le mani. Il bello è quella radio, è per dire, c'ha il 45, il suo tipo le va anche al 45 va. Però come modulazione non spinge, per dire, neanche come neanche a paragone a quello che stai dando tu adesso. Vabbè, ma magari uno ci abbina un microfono amplificato e migliora la modulazione, se è quello il problema. Quello sì, però io c'avevo, si va per la macchina, però non spingeva. E vabbè, quando lo regalano ed è gratis, Gianda, vabbè, meglio di nulla. Ah, quello sì, quando è regalato tutto è bello, bellissimo, va bene. Perché nei camionisti è passata la moda del CB, non ce l'ha più nessuno, c'hanno i gruppi WhatsApp per segnalarsi incidenti, restringimenti, ingombri in carreggiata, posti di blocco eccetera, e quindi i CB li hanno tutti smontati. Quando ho deciso di riaccendere qua ho sparso la voce, chi mi ha regalato un microfono, chi ha trovato il baracchino, insomma ho racimolato un po' di cose e sono riuscito a riaccendere. Cavagava, no, invece al contrario, l'estate con questa propagazione ce n'è di gente, ce n'è che ci vogliono un po' di un scarpone ci vuole per arrivarci, però io quest'estate ne ho fatto tanti collegamenti su 45 e a voglia. Ma anche adesso si sentono molti stranieri, che magari sono in banda laterale o non lo so, perché non riesco a capirli, però arrivano forte, qualcuno arriva in FM, ma quando non hai potenza d'uscita e cartucce, no, non c'è, tu li senti ma non ci arrivi. E quello è, vabbè, cartucce ci vogliono, quelle armeria pesante ci vuole, il drone. E niente, no, per dire, stasera ci ho fatto un giro al 45 e stavo cercando di accordare qua. E ho fatto un breve passaggio con uno che era di punta di Casinale anche in Italia, Rita Sicca. Però ho fatto due passaggi e niente, però qualcuno già c'è. La propagazione permettendo, poi l'estate è il top, l'estate ci sono bizzarrissi, centro, nord, sud, isole, dappertutto viaggi. E magari ci vuole la radio giusta, perché non lo so se in AM con un apparato omologato e un 4 watt riesce a fare qualcosa. Sì, va bene il lineare, ma non so se poi vanno in banda laterale, in USB o in qualche altro tipo di modulazione. No, cioè, semplicemente al 45 la banda è... c'ho anche quello con l'eco e tutto quanto, io ce l'ho ben elaborato, capito, e quindi si prende e si viaggia al 45. Ho capito, bisogna investire nelle passioni. Esatto, è rimasto uno qua modificato, poi vabbè c'ho il 48 originale, non già me lo ricordo se sono tutto, però è il 48 e niente. Ma comunque per adesso già va bene così, almeno mi ci passo l'ora e mi faccio una chiacchierata. Quello sì, Lu. Quello sì, però poi adesso che li ha acceso da poco, ma poi piano piano vedi che ti riscimi nuovamente. Quando modulavo alla fine degli anni 90 avevo un Intec 3230 che dava i 40 canali, però se in fase, cioè prima di accendere schiacciavi due tasti e accendevi, allora automaticamente ti dava 40 canali A, B, C, D, E. Quello era bello, poi l'avevo, non so neanche che fine ho fatto, l'avevo prestato ma non mi ricordo neanche a chi, fatto sta che è andato, ed era bellino, molto bello, era Multicom 3230. Cava. display digitale ci aveva. Sì, display digitale. Era molto bellino, molto. E c'aveva addirittura il frontalino estraibile, tipo le radio di quando ho avuto la prima Golf, che te le portavi appresso, però potevi togliere il frontalino. Questo aveva il frontalino estraibile. Cavolo, bello. Però non si poteva disaccoppiare dalla radio, cioè dovevano viaggiare sempre insieme, non c'era, poteva fare una più lunga, mettere l'unità da una parte e poi il frontalino dall'altra. No, negativo. Era come i frontalini degli autoradio, no? Ti ricordi i Pioneer, che si acciava il tasto sulla destra e si staccava il frontalino e rimaneva la radio col nero, ci aveva dei contatti diretti, così era quello lì. Addirittura il frontalino ci aveva il suo astuccio per potertelo portare in giro e magari lasciare il resto piazzato fisso in macchina. Posto che io in macchina non lo utilizzavo, ce l'avevo di base a casa, però aveva anche quella possibilità di staccare appunto il frontalino. Usciva già amplificato perché dava già 15 watt quando lo accendevi con tutte le bande là, altrimenti in originale dava i 4 watt normali, però mettendo le 5 bande te lo dava, mi sembra, 15 watt. Era molto bello, chissà che cavolo l'ho dato, è sparito. Cavolo, vedi? Quello è bello. All'avanguardia era, dai, perché una cosa lasciava l'unità in macchina e si portava il resto appresso nella storia. Avevo il microfono da tavolo della ZG, mi sembra si chiamasse più 4, Turner più 4, una cosa del genere, era nero con una manopola grigia e anche quello dava tanta modulazione. Il Turner più 4? Quello nero col potenziometro del mic grigio, era tutto nero e con il tasto della portante grande. Grigia al centro era, l'ho avuto anche quello, Meda. E quanta cosa è che ha avuto? Oh, yeah. Vabbè, molta roba me l'ho fatta fuori, perché a fin fine non riuscivo neanche a gestire tutta questa cosa, per essere guastarci me l'ho data. Avevo il preamplificatore d'antenna della ZG, avevo tante cose, uscivo bene quel periodo e poi è passata la moda, mi sono dedicato a altre cose, erano nate le chat di Tiscali, io mi ero appena mollato e ho iniziato a maialare nelle chat a chi vera di Duttu e c'era tanto da fare, capisci a me? Sì, conferma. Si conferma, però per questo io le radio ce l'avevo sempre, abbiamo mai mollate, una cosa che mi è sempre rimasta. Ma nelle chat c'era da fare, da divertirsi, e mi sono divertito veramente, ma veramente tanto. Poi anche le chat sono sparite con l'avvento di Facebook prima, Instagram, TikTok e tutto il resto. Ma quando c'erano le chat di Tiscali con le stanze di Sassari, le stanze sardegne, ce n'era di tutti i colori. Allora mi son proprio divertito, sono nate grandi amicizie che porto avanti tuttora con gente conosciuta in quelle chat e mi sono divertito a morire. Abbiamo fatto delle pizzate della stanza chat di Tiscali tipo in 120 iscritti alla pizzata, e abbiamo noleggiato una pizzeria intera lì all'altro mondo un sabato sera e c'era il mondo, era veramente divertente. Bei tempi, anche ogni tanto c'entravo lì, poca roba. E io entravo a cercare persone da consolare. Ah beh, alla fin fine si trova per quello, ce n'era proprio tanto. Ce n'era. Bomboli, ancora ci sei? No, non risponde all'appello. Aspetta, stava parlando. Bombolo! non lo sento più. Prova a chiamare il Tullo, magari adesso ti ascolta meglio. Antonio, ci sei? Zero, no, non c'è. Va bene. Non ha chiuso, no? Mi sembra strano, oppure e se vuoi fare qualche commissione al volo. Eh sì, ok, qualche anno fa è passato lui. Oh, Iuia. Sembra ieri, in un attimo. E oramai le giornate sono tutte uguali, uno all'altro, un lavoro abbastanza ripetitivo. E inizi lunedì aspettando il venerdì, sembra tutto uguale, passano gli anni che non te ne accorgi. Io ho cambiato tanti tipi di lavoro e mi sono ritrovato in quest'ultimo lavoro che ci sono già 21 anni, e sembra ieri. Ed è così, oioia. E mi deve passare il tempo, sennò guai. Se passa il tempo vuol dire che ci siamo. I cura non ribassa più. Ecco, bravo, sto per dire io. Giustissimo. Sembra che sia ripreso qua la banana cinese. Fra un po' inizia il bel tempo, iniziano le belle giornate e tocca lavorare, tocca fare manutenzione. Quest'anno c'ho la manutenzione pesante alla barca. Già va bene. E invece io, l'estate è tribola, altro che. Beh, anche da noi a lavoro l'estate si lavora molto, molto di più. Non dico il doppio, ma forse anche di più. Però riesco a prendere le ferie agosto e ho bisogno della barchetta per staccare la spina. Ah beh, ci vuole diversivo, meno male, sennò guai. Troppo si impazzisce. E prima c'avevo la moto e poi per colpa di un'ernia in moto non riuscivo più a andare perché mi faceva mal di schiena, nonostante mettessi le fasce lombari, però tutti i sussulti, ogni buco si ripercuoteva lì, e la sera rientravo a casa piegato. E allora ho fatto fuori la moto, mi sono preso ora uno scooter giusto per le commissioni, ma la moto l'ho venduta e mi ho preso una barchetta per passare il fine settimana. Hai fatto bene. Allora ti fai i tuoi giri in barca e via. È l'ultima direttevole. Ma anche senza fare grandi giri. Ho la fortuna di aver trovato il posto barca in un porticciolo vicino al Ghero che non è un porto chiuso dove l'acqua è brutta, è un porto galleggiante, diciamo, su palafitte o galleggiante, per cui l'acqua è splendida. E la compagnia dei proprietari delle barche a fianco è piacevole perché organizziamo la pecora bollita cucinata sul molo, ci organizziamo il maialetto occasionalmente. Poi tutta la sera ognuno cena nella sua barca col silenzio, col tramonto, bellissimo, tutto quello che vuoi, e poi uno lancia la voce, ma è bello, digestivi, cosa fate? Venite da me. E allora un giorno da uno, un giorno dall'altro, ognuno porta qualcosa e finisce sempre per farsi le 4 del mattino ridendo. E ho la fortuna di aver trovato dei vicini di barca che sono molto di compagnia, e infatti siamo una grefa che tante volte non usciamo neanche in barca, ma ce ne rimaniamo sul molo, cioè abbiamo fatto colletta, abbiamo comprato la scaletta tipo piscina, quella in acciaio, e facciamo il bagno lì e si vive sul molo ed è veramente divertente. E in pratica te lo usi come se fosse una casa, no? Fine, una casa galleggiante. Così è bello. L'importante è avere la compagnia giusta e ti vuole anche il tempo. Sì, alla fine è diventata la casetta d'appoggio per il fine settimana, e addirittura quando vado in ferie ci passo 15 giorni. Certo, la schiena un po' ne risente anche lì, perché il letto della barca, per bello che sia, io ho messo il materasso in memory foam, tutto quello che vuoi, ma sei sempre in barca, non è il letto di casa, però ti svegli la mattina presto, alle 7, il mare è uno stagno, è piatto, fermo, ti fai il bagno presto, poi piano piano si svegliano tutti, andiamo a fare colazione tutti assieme al mare, no, è veramente figo, è veramente bello. Cava, e vedi, va tutto bene, oh, io. Va bene, lui, devo staccare un attimo, poi se ci siete li prendo dopo, dai. Capo, anche io lascio in ascolto perché mi sa che non c'è più nessuno, e poi se qualcuno entra già lo sento. Va bene, ok, ma io faccio in quel ritiro e ci sentiamo dopo se coincide, dai. E niente, se no alle prossimine, buon proseguimento, buon tutto, e salutoni anche agli eventuali ascoltoni che ci sono. Cappa, anche io faccio stessa cosa, salutone, alle prossime, è stato un piacere chiacchierare, ciao. Ciao Lu, buon proseguimento, alle prossime, ciao ciao. Uè Lillo, Lillo, butta giù la pasta che è pronta, Lillo, butta giù la pasta che è pronta. Uè Ciccio. E beh, Gigi la trottola! E beh, Bruno! E Bruno Vespa! E beh, a tu! E andando sì, da Guido! Ma c'è a perdere che è più cara di quella che dove sono io! Cazzo, 6 mesi, 800 euro, ma buffonendice! Ma stai scherzando, sta? Ma sei andato da Guido Iuto? E allora? Cazzo! Possibile! Tu adesso ci avrai il merito di un'altra persona. Merito di che? Merito di cose più basso. Ma io non ho merito di nessuno. Ti sto dicendo 6 mesi di 800 euro mi ha chiesto, ma stavo scherzando, ho detto con 800 euro mi faccio tutto, con 600 euro faccio tutto l'anno io. Cazzo, voi mi chiedete 6 mesi. Ma sei andato da Antonello Zitti, sì. Lui è magrolino. Sì, e poi ci sono altre due ragazze. È troppo di apparato. Infatti io ti lascio perdere. È strano, perché loro hanno preso competitivi hanno. Competitivi, cazzo è la più cara amica, cazzo competitivi. Io pago poco. Ah boh, non lo so. Oh, strano. Non lo so, anche io sono andato ieri l'altro giorno e mi ha fatto questo preventivo qua. Cazzo, si sento io. Se no, ho usato quello cinese. Ma come mai così caro da te? Cosa mi sono qui io? Non è che ti sei cuto, no? Ah, no, non mi ho fatto sinistra. Anche se facevo qualche sinistra non dovresti pagare così tanto. Ho fatto sinistra, sì. Sì, ma non ti faccio ne pagare così. Cazzo, sei mezzo tu sei tuo, ma buffonelli sei. Tu sinistra hai fatto? Io no. Ma non è che hai pagato bull'anno, no? Hai fatto sinistra. Quello che ti ho fatto vedere ce l'avevo già una volta assicurato, 6 mesi. Poi me ne sono andato perché era troppo cara. Sì, all'angolo rimane, già è quello. Ciao a tutti, ciao Manuel, vi sto ascoltando. Per la mia Gorizia, dove vado io, che faccio risparmiare un po' di gente. Manuel, mi senti? Dimmi già. Andare lì dove c'è il mezzallo. Via Gorizia. Tutti, a chi c'è in ascolto? Qua da Ciampi, Golfo della Dinara, Un attimo Ciampi, praticamente in via Gorizia, sotto quel portico che c'è, sali da Viale Trento, sulla sinistra c'è quel porticato, sotto quel porticato c'è un bar e c'è l'assicurazione dove vado io. E ho fatto risparmiare un po' di gente lì. Sì, ma dipende da classe di merito, capito? Io già. Quello non lo so, però io per la mia ogni 6 mesi pago 178 euro, ogni 6 mesi. E tu perché c'è così di anzianità pure? Io ce l'ho già 2 anni assicurata, 2-3 anni, però sono cari pure questa assicurazione. Cazzo, mi mamma la do. Antonio, cazzo, 600 euro, no, 800 euro, 6 mesi, ma buffonelli siamo, tanto vale perché non ne so più. Provo ad andare lì e poi mi dà la risposta, questo è un pluriassicuratore, praticamente ti puoi guardare l'assicurazione che costa meno, capito, ne ha diverse. Plurimarche. Io devo dire, ma non vuol dire che è troppo, io devo dire. dice fammene una come si deve, ma che te l'ha fatta Antonello la ragazza? Sì, minchia. Con chi stai parlando? Con Manuele e con Antonio. No, Manuele già lo sentivo, Antonio non lo sento più. E Antonio se non mi dà in rete, lui ti mette un amplificato, non c'è un abuso. Se si vuole far sentire basta che metta un amplificato in quell'apparecchio e lo sentono tutti. Ho già dei dinassovissimi. E vabbè, invece di prendere un altro per il microfono quando ce li hai. Beh, va a casa, ci sentiamo dopo. Ciao a dopo, dai, ciao a tutti, dai, che sto facendo, finendo di pulire, quindi faccio una bella doccia, se va pure. Cosa già? No, ho detto, vi ascolto, che sto finendo di pulire, quindi faccio una bella doccia, e se va pure. Bravo, bravo, doccia calda, e si è a posto. Ciao, Manuele. Boh, non sento più niente io. Chi è? Sto parlando, stanno già. No, non sento nessuno, Claudio. Ero nella prestata. Va bene, dai, se vado in ascolto anch'io allora, ci sentiamo dopo. Chi è? Poi il ciccio. Lillo, buttaci la pasta.